Ho anch'io un regalo per te. La tua vita. La mia vita? E le vite di questi tuoi saggi padroni, ma voglio anch'io qualcosa in cambio. Dovrete liberare ogni schiavo di Yunkai. Ogni uomo, donna o bambino dovrà avere da voi cibo, vestiti e tutto ciò che potranno portare via come risarcimento per i loro anni di schiavitù. Se rifiutate questo dono, non avrò per voi alcuna pietà. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Speravo che fosse veloce, o comunque più veloce del primo, ma non immaginavo così tanto. Ma non c'è tempo per il panico, sono le 2.35 e io gli dico che non importa, Luca sta nascendo e in nessun modo sarei riuscita a fare le scale per arrivare alla macchina. Storie di parti velocissimi e di regine dei draghi in una puntata dedicata all'eccesso di velocità. L'eccesso di velocità è una sorta di nuovo vizio capitale che abbiamo scoperto proprio grazie alle storie che ci mandate. Linee d'ombra @radio24.it, grazie per continuare a farlo. L'eccesso di velocità è quella sorta di nuovo vizio che in qualche modo ci impedisce di rallentare, di fare un respiro, di guardarci intorno, di prenderci un pochettino più di tempo per noi. Devo dire che in realtà in una parte d'Italia in questi ultimi giorni, proprio per questa emergenza sanitaria che si sta avvampando un po' tutto il nord Italia, molte persone che sono banalmente costrette a stare a casa e a fare il lavoro smart working, si chiama, fare lavoro da casa, forse scoprono che devono trovare del tempo in più o semplicemente se lo concedono perché sono a casa e magari escono a fare una passeggiata con i bambini che sono a casa da scuola. Ma questo è un difetto, direi, che ha colpito da ormai qualche decennio un pochettino tutta la società, e noi vi raccontiamo due storie che hanno a che fare proprio con la velocità e con il non riuscire a rallentare. Una delle due storie arriva dalla voce di quella attrice che avete sentito in apertura, come al solito è un doppiaggio e quindi è la voce della doppiatrice italiana, ma quell'attrice è la protagonista di Game of Thrones. Game of Thrones è probabilmente una delle più importanti serie televisive degli ultimi anni, e una di queste una delle attrici di Game of Thrones, che si chiama Emily Clark, che è appunto la regina dei draghi, ha subito uno shock molto forte. Dopo la prima stagione di Game of Thrones, lei parte da essere una ragazzina, non aveva nemmeno esperienze recitative, dall'Inghilterra viene trasportata negli Stati Uniti e diventa una star assoluta all'età di 24-25 anni, e ovviamente tutto comincia a correre intorno a lei, salvo che a un certo punto è costretta a fermarsi per via di un problema che arriva alla sua testa, per via di un aneurisma che la colpisce. In questa puntata lei stessa, con la sua viva voce, per la prima volta l'ha fatto al New York Times qualche mese fa, ci racconta esattamente che cosa è accaduto, ci racconta tutta la storia. La prima storia invece che vi raccontiamo, che vi racconto a breve, è una storia che parla di un parto, che è troppo veloce e si incastra in una di quelle situazioni che ha a che fare con la legge di Murphy. Sapete, no? La legge di Murphy dice che se una cosa può andare storta, andrà storta. Ecco, c'è un'emergenza non da poco, cioè c'è questa giovane donna che è incinta, deve partorire, comincia un temporale e il cancello automatico della casa si blocca, non riescono a uscire con la macchina, l'ambulanza non arriva, e a un certo punto lei chiede al marito: lasciamo stare, ormai manca poco e non ce la faccio. Questa è una puntata particolare perché questa storia noi la vediamo da due punti di vista diversi. Abbiamo la storia di lei, ovviamente, della nostra protagonista, della nostra ascoltatrice, di Maria, che ci racconta come è andata quella notte, ma apriamo con un pezzo che è tratto proprio da La Provincia, che è il quotidiano locale, che il 13 settembre del 2019 ha raccontato questa storia. Quindi apriamo con una notizia di cronaca, la differenza tra la cronaca e la narrazione. Apriamo con una notizia di cronaca e poi andiamo nel cuore della storia. Il pezzo della provincia era così: il cancello elettrico non si apre, Luca è obbligato a nascere in casa. Firmato da Patrizia Zucchi. Val Madrera, provincia di Lecco. È il primo bimbo che ha visto la luce in città dopo 2 anni. Il primato è del piccolo Luca Volonté, tra i pochi che potrà esibire sui documenti la scritta «Nato a Val Madrera». Il motivo è che Luca è venuto al mondo in casa, peraltro in modo rocambolesco, invece che all'ospedale di Lecco come tutti gli altri bambini. Il precedente più recente risale al 2017, racconta papà Alessio che fa l'imprenditore. Prima c'era stato un caso nel 2014 e per trovarne un altro bisogna arrivare al 2008. Far nascere il secondo genito in casa però è stata tutt'altro che una scelta per i genitori. Maria, la mamma, racconta: ora l'avventura è un bel ricordo, ma possiamo dire davvero che è stata breve e intensa. Tutto comincia nella notte tra sabato e domenica scorsi, attorno alle 2:10 del mattino. Su Val Madrera si stava abbattendo un temporale, racconta Alessio. Maria mi ha svegliato dicendo che avvertiva delle contrazioni. Abbiamo cominciato a prepararci per raggiungere l'ospedale. Nel frattempo ho chiamato la nonna per tenerci il fratellino. Ha detto che sarebbe arrivata subito. È stato allora che gli eventi hanno subito un'accelerata inattesa. Il temporale si è trasformato in un nubifragio ed è saltata la corrente, continua il padre del piccolo Luca. Senza luce, mentre cercavo a tentoni il necessario, Maria mi ha avvertito che il bambino stava per nascere. La nonna in quel mentre da fuori ha telefonato avvisando che non riusciva ad entrare in casa. Oddio il cancello, tutti hanno pensato. Senza elettricità, era bloccato. Per la legge di Murphy non era mai successo in 11 anni che abitiamo qua, prosegue. Cerco le chiavi del cancelletto pedonale, mai usate e non funzionano, racconta il padre. Intanto sono le 2:30, telefono al vicino per farmi aiutare. Lui arriva, ma ecco che Maria dice di doversi sdraiare. Il bambino sta nascendo, con me è il vicino ad assisterla e la nonna sempre fuori dal cancello, sotto il diluvio. Il racconto prosegue dicendo: io sono un tipo impressionabile, ma l'adrenalina e specialmente Maria e il piccolo Luca hanno fatto il resto. In pochi minuti era tutto finito. Anzi no, nel frattempo avevamo chiamato il 112 e l'ambulanza era arrivata, anch'essa bloccata all'esterno per via del cancello. Così, col vicino, ci siamo messi a smontare dei pezzi del cancello per aprirlo a mano, sotto l'acqua, e sperando di non concludere il lieto evento colpiti da un fulmine. Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. E questo appunto era un articolo, uno di quegli articoli che si trovano sui giornali, in particolar modo sui giornali locali, che dedicano magari una parte di cronaca e di costume, anche per via del fatto che un bambino è nato in un paese dove non si lascia più, semplicemente perché si va all'ospedale. Era tratta dalla provincia, era il 13 settembre 2019, ma un mesetto fa Maria, la protagonista della storia che avete sentito in cronaca, ci ha mandato la sua versione dei fatti. Quindi torniamo là: sta cominciando a piovere, sta arrivando un grande temporale, ma soprattutto sta per nascere un figlio. Sono le 2 dell'8 settembre 2019 e qualcosa non va. Mi alzo, vado in bagno, poi torno a letto, mi giro e mi rigiro, poi mi alzo di nuovo, torno in bagno. L'andirivieni sveglia mio marito che mi chiede se è tutto a posto. Mi sa che ci siamo, dico. Sono le 2:10, forse è giunto il momento di conoscere Luca, il mio secondo bambino. No, davvero, risponde lui, improvvisamente lucido, nonostante il brusco risveglio. Non ne sono sicura, non sento ancora male, ma le contrazioni si susseguono frequentemente, intanto è scoppiato un violento temporale. Un tuono molto potente fa sussultare entrambi e ci fa sperare che sia un falso allarme, per non dover uscire di casa nel pieno di una notte fredda e tempestosa. Il futuro papà bis, Alessio, mio marito, telefona a sua mamma per allertarla. Avrebbe dovuto raggiungerci a casa per curare il nostro primo bambino, Andrea, mentre noi saremmo andati in ospedale. Io decido di fare una doccia. durante il travaglio del primo bambino, era stata risolutiva, facendo avviare le giuste contrazioni. Anche in questo caso l'acqua calda sblocca la situazione. Ecco, non ci sono più dubbi, le contrazioni giuste sono arrivate. Sono le 2:15, Alessio richiama sua mamma per confermarle di raggiungerci, mentre noi prepariamo le ultime cose da portare in ospedale. Alessio scende in garage a portare i bagagli, mentre io aspetto in casa cercando, senza riuscirci, perché ormai le contrazioni sono belle forti, di mettermi le scarpe. Sinceramente non c'è proprio stato neanche tempo per aver paura, per preoccuparsi, forse perché ero talmente presa dalla situazione, un po' comunque dal male che sentivi, un po' tutto l'insieme di cose, ma non c'è stato tempo di preoccuparsi, no, non ci ho pensato proprio a tutto quello che poteva andare male, storto, no. Alle 2:30 tutto ha un'accelerata improvvisa. Mentre a me si rompono le acque, e le contrazioni sono sempre più potenti, Alessio rientra in casa dicendomi che il cancello non si apre. Il temporale ha causato un blackout, la nostra macchina quindi è bloccata all'interno, mentre sua mamma è bloccata all'esterno e non può entrare. Non ci preoccupiamo, non ancora. Alessio esce di nuovo, stavolta con le chiavi, per aprire naturalmente, manualmente, il cancelletto pedonale. Sono le 2:34, la chiave non funziona, la copia di una copia che non era mai stata provata prima. Alessio telefona quindi al nostro vicino di casa chiedendo se può aiutarlo. Intanto entra in casa per avvisarmi che il problema non è ancora risolto. Ma non c'è tempo per il panico. Sono le 2:35 e io gli dico che non importa. Luca sta nascendo e in nessun modo sarà riuscita a fare le scale per arrivare alla macchina. Questione di secondi, parte la chiamata al 112. Alessio spiega la situazione. Io mi sdraio per terra sul nudo pavimento, lì dove sono, lì come sono. Perché sento che la testa di Luca è già fuori. Sono le 2:40. E arriva un pianto. Luca nasce sul pavimento della nostra sala, assistito dal papà e dal nostro vicino, che nel frattempo ci aveva raggiunto. I soccorsi, senza ambulanza perché bloccato ovviamente fuori dal cancello, arriveranno solo 5 minuti dopo, constatando che sia Luca sia la mamma stanno bene. Close your eyes. Insomma, vi abbiamo raccontato due versioni della stessa storia. La prima è una notizia in cronaca, come si direbbe nel settore giornalistico della stampa, cioè una giornalista che racconta questa storia dopo aver intervistato i protagonisti. L'altra invece, che è quello che facciamo abitualmente noi, è raccontare la storia dall'interno, cioè Maria ha preso il computer, l'ha aperto e ci ha scritto com'è andata quella sera, e Maria ovviamente è qui con noi. Ciao Maria, buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Luca come sta? Bene, anche lui bene. Senti, quante volte l'avete raccontata? Questa ovviamente è una storia che adesso vi giocate alla grande con parenti, amici. Non solo, conoscenti, persone mentre sei in fila in ufficio, ormai ovunque, non so dire quante volte l'abbiamo detta. C'è gente che ti indica, oh ragazzi, quella è quella che ha fatto nascere il bambino in casa. Sì, è capitato, è capitato anche questo. Senti, la prima cosa che mi viene da chiederti è successo tutto in maniera naturale, nel senso che a un certo punto il bambino è uscito, a parte che io aprirei una parentesi sul vicino di casa, nel senso che tuo marito va bene, è lì, ma lui come si è comportato? Allora, il vicino è arrivato pensando praticamente di prestarci le chiavi della sua auto. Certo, bravo lui, to ragazzi, tenete la macchina, andate. È entrato dalla porta, e la porta subito lì dove c'è, dove ero sdraiata per terra. Quindi lui è entrato e mi ha trovato lì per terra e mi ha detto: ah, ma quindi sta facendo? Senti, c'è stata la situazione che sempre quando si vede in TV, nei film, nascere un bambino nell'ospedale: prendete acqua calda e asciugamani. Qualcuno l'ha detto? Asciugamani, sì. Quello del, insomma, comunque era il telefono di mio marito del 112 che ha detto di prendere gli asciugamani. Okay. E allora sia mio marito che il vicino sono schizzati per la casa a cercare asciugamani, che ovviamente non trovavano, nel panico. Quanto ti ha aiutato il fatto che fosse il secondo figlio? Cioè, quindi tu l'avessi già provata quell'esperienza una volta, Maria? Ma sinceramente non lo so, perché è tutto diverso. Comunque ogni parte. Beh, tipo perché eri sul pavimento di casa tua, anche banalmente. Il dolore è stato. Ma il dolore è stato più o meno forte? È stato più diverso, più intenso, ma essendo così limitato, è stato molto meglio, comunque. Ok. La parte, diciamo, finale è stata meno dolorosa rispetto al primo. Ma per capire, loro ti parlavano, ti dicevano qualcosa? Hai fatto tutto tu, in sostanza? Ho fatto tutto Luca, cioè non ho proprio fatto niente. Luca è il bambino, giusto? No, perché sennò ci confondiamo con lui. No, tentavo di non farlo uscire, in realtà. Ah. Tentavo in tutti i modi di tenerlo, ma invece ho proprio fatto tutto lui, perché io non ho fatto nulla. Mio marito parlava con quelli del 112, anche lui non ha fatto niente, l'ha semplicemente, quando è uscito, l'ha preso e me l'ha appoggiato sulla pancia. Cioè, Laura Faggin di là dal vetro, che ha avuto due figli, che è commossa, non so se dalla situazione o dal tuo coraggio o dal fatto che sia successo in questo modo. Quando sono arrivati i paramedici, insomma gli infermieri del 112, ti hanno dato delle pacche sulle spalle, tipo good job? Erano tutti complimenti, non abbiamo visto mai nessuno così calmo, perché dopo io comunque esternamente eravamo anche calmi, poi vabbè, una volta che è nato e che stava bene, ha cominciato a piangere, insomma, esatto. ha fatto tutto quello che fanno i bambini, giusto? Sì, esatto, quindi ci eravamo tranquillizzati, quindi anche loro ci hanno proprio detto che sono rimasti stupiti da come comunque fossimo calmi nell'aver gestito questa situazione. Senti, una cosa tecnica, né da medico né da persona che ha mai visto un parto, quindi è tecnica, insomma, lascia il tempo che trova. Il cordone ombelicale quando è stato tagliato, dopo? Cioè quando sono arrivati con l'ambulanza. Però lì in casa, non all'ospedale? Sì. No, in casa. Ce l'hanno tagliato lì e dopo ci hanno imbarellato. Il vostro primo figlio, figlio o figlia è il primo, scusami? Figlio, Andrea. Andrea ha sentito il racconto, gliel'avete detto? Ma è piccolo, perché ha due anni e mezzo, e lui dormiva nella stanza accanto e non si è accorto di niente, nonostante il trambusto. Lui si è svegliato al mattino e il papà gli ha detto che il fratellino era nato. Si era mai bloccato il cancello elettrico prima? Era capitato, non a noi, cioè non dovessimo uscire, ma ci avevano raccontato mia suocera, che era già venuta una volta, che gli era già capitato che non riuscisse a uscire, sì. Maria, avete in mente di fare altri figli oppure? No, per il momento no. Per il momento no. È un po' paura, mi trasferirei da parte allo spazio. Ma male che vada, lasciate fuori la macchina, banalmente, non mettetela in garage, mi sembra. Sicuramente, tra l'altro, il nostro vicino di casa aspettava il terzo figlio. In quel momento. Beh, ma siete veramente un condominio straordinario. Maria, grazie mille davvero, in bocca al lupo per tutto, saluta grazie, Luca da parte nostra. Ciao, bene, a presto. Grazie, ciao. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La puntata di oggi è dedicata, lo avete capito, a storie di eccessi di velocità. E la prossima storia racconta di una grande star americana, come dicevo in apertura. Lei è un'attrice molto giovane, si chiama Emily Clarke, ed è una delle protagoniste di Game of Thrones, che insomma è la serie, probabilmente una delle serie per eccellenza, insieme a Breaking Bad, è una delle serie televisive di riferimento quando si parla di quel modo di fare TV. Ha uno stuolo di milioni e milioni di fan. Insomma, Emily nel turbinio irrefrenabile delle stagioni di quella serie, appunto una delle più premiate viste di sempre, all'improvviso ha un enorme problema di salute e deve rallentare per forza per curarsi. Dice così: proprio quando tutti i miei sogni d'infanzia sembravano realizzarsi, ho quasi perso la testa e la vita. Non ho mai raccontato questa storia in pubblico, ma ora è arrivato il momento di farlo. La storia di Emily Clark. State con noi. Era l'inizio del 2011. Avevo appena finito di girare la prima stagione di Game of Thrones, una nuova serie HBO basata sui romanzi A Song of Ice and Fire di George R. R. Martin. Senza praticamente nessuna esperienza professionale alle spalle, mi era stato assegnato il ruolo di Daenerys Targaryen, conosciuta anche come Khaleesi, madre dei draghi. La giovane principessa Daenerys viene data in matrimonio ad un muscoloso signore della guerra Dothraki di nome Khal Drogo. È una storia molto lunga, 8 stagioni, ma la giovane donna che crescerà in salute e forza diventerà potentissima. Diventerà una figura di grande potenza, al punto che in breve tempo, per Halloween, le giovani ragazze cominciano a vestirsi con parrucche di platino e abiti fluenti, proprio per essere Daenerys Targaryen. Nelle settimane successive alla fine delle riprese della prima stagione, nonostante l'eccitazione per una campagna pubblicitaria globale e le premiere della serie in tutto il mondo, non mi sentivo proprio uno spirito conquistatore. Ero terrorizzata. Terrorizzata dall'attenzione. Terrorizzata da un business che capivo e comprendevo a malapena. Per alleviare lo stress, mi allenavo con un trainer. Dopotutto, ero un'attrice ora. Un'attrice televisiva. E questo è quello che fanno gli attori televisivi, si allenano. La mattina dell'11 febbraio 2011 mi stavo vestendo nello spogliatoio di una palestra di Crouch End a nord di Londra quando ho iniziato a sentire un forte mal di testa. Ero così stanca che riuscivo a malapena a mettermi le scarpe da ginnastica. Quando ho iniziato l'allenamento ho dovuto sforzarmi per fare i primi esercizi. Poi il mio allenatore mi ha fatto mettere sulla panca e mi sono sentita subito come se un elastico mi stesse spremendo il cervello. Ho provato a ignorare il dolore e a spingere, ma non ci sono riuscita. Ho detto al mio trainer che dovevo fare una pausa. In qualche modo, quasi strisciando, sono arrivata allo spogliatoio. Ho raggiunto il bagno, mi sono inginocchiata e ho cominciato a vomitare. Nel frattempo il dolore non si fermava, mi pugnalava e continuava a peggiorare. A un certo punto ho capito chiaramente cosa stava accadendo. Stavo avendo un ictus. Per qualche istante ho cercato di allontanare il dolore e la nausea. Mi sono detta, non resterò paralizzata, no. Ho mosso le dita delle mani e dei piedi per assicurarmi di poterlo ancora fare. Per mantenere attiva la memoria ho cercato di ricordare, tra le altre cose, alcune battute del mio personaggio di Game of Thrones. Poi una nebbia di incoscienza si è depositata su di me. Da un'ambulanza sono stata trasportata su una barella in un corridoio pieno di odore di disinfettante, di rumori di persone che si lamentavano, ma nessuno capiva cosa ci fosse che non andava in me. Quindi i medici e le infermiere non potevano darmi nessun farmaco per alleviare il dolore. Alla fine mi hanno mandato a fare una risonanza magnetica. La diagnosi è stata rapida e minacciosa. Un'emorragia subaracnoidea, un tipo di ictus potenzialmente letale. Avevo avuto un aneurisma. Ricordo che mi dissero che avrei dovuto firmare una liberatoria per l'intervento, un intervento di chirurgia cerebrale. Ero nel bel mezzo della mia vita super impegnata e non avevo tempo per un'operazione al cervello. Ma alla fine ho firmato. E poi ho perso i sensi. Per le 3 ore successive i chirurghi si misero a sistemare il mio cervello. Questo non sarebbe stato il mio ultimo intervento e non sarebbe stato nemmeno il peggiore. Avevo da poco compiuto 24 anni. This is to do, but I won't listen, 'cause I'm way too curious to think that's what I'm missing. It will try to find me sounding by the beds where I have turned, but then I won't be there no more. There's a star that tells me where I've been, but I don't see it, 'cause I'm way too hungry for the road and for its secrets. It will try to find me shining in the nights when it's too cold, then I won't be there no more. There's a girl that tells me I'm all right. I hope she means it, 'cause I'm way too stubborn to believe that we won't make it. She will find me when I stumble on the dark I used to know, and then I won't be there no more. Nella primavera del 2010, il mio agente un giorno mi ha chiamato per dirmi che si stavano tenendo dei provini a Londra per una nuova serie HBO. La puntata pilota di Game of Thrones aveva avuto un problema e volevano riconsiderare, tra gli altri ruoli, quello di Daenerys. A quei tempi pensavo di essere in buona salute. A volte mi girava un po' la testa perché spesso avevo la pressione bassa e il battito cardiaco basso. Insomma, ogni tanto sì, mi girava la testa e svenivo. A 14 anni avevo avuto un'emicrania che mi aveva tenuta a letto per un paio di giorni e a scuola di recitazione ogni tanto crollavo. Ma tutto sembrava gestibile. Parte dello stress di essere un attore o della vita in generale, che è sempre di corsa, insomma. Ho fatto il provino per Game of Thrones in un piccolo studio a Soho. 4 giorni dopo ricevetti una telefonata. A quanto pareva il provino non era stato un disastro come mi era sembrato. Mi chiesero di volare a Los Angeles e in 3 settimane fare l'audizione per i dirigenti del network. Ho iniziato a lavorare intensamente per prepararmi. Mi hanno fatto volare in business class. Ricordo di avere rubato tutto il tè gratis del lounge della compagnia aerea. Ho letto 2 scene in un auditorium buio per un pubblico di produttori e dirigenti. Quando è finita ho chiesto: posso fare qualcos'altro? David Benioff ha detto: puoi danzare se vuoi. Non volendo mai deludere nessuno, io ho fatto la danza del pollo funky e la mosse del robot. Col senno di poi avrei potuto rovinare tutto. Non sono una gran ballerina. Mentre uscivo dall'auditorium, mi sono corsi dietro e mi hanno detto: congratulazioni, principessa. Sì, avevo avuto la parte. E ora invece ero qui, a distanza di pochi mesi, appena sveglia, dopo un'operazione al cervello durata 3 ore. Al risveglio il dolore era insopportabile. Non avevo idea di dove fossi. Il mio campo visivo era ristretto, avevo un tubo in gola ed ero assetata, nauseata. Soffrivo di una condizione chiamata afasia, una conseguenza del trauma che il mio cervello aveva subito. Anche mentre borbottavo sciocchezze, mia madre mi ha sempre fatto la grande gentilezza di ignorarle e di cercare di convincermi che ero perfettamente lucida. Ma sapevo che stava mentendo. Nei momenti peggiori volevo staccare la spina. Arrivai a chiedere al personale medico di lasciarmi morire. Il mio lavoro, il sogno della mia vita, era incentrato sul linguaggio, sulla comunicazione. Senza quella ero perduta. Dopo un mese uscii dall'ospedale, anche se i medici mi dissero che c'era un'altra possibilità di aneurisma, che sarebbe potuto rimanere dormiente, ma che forse sarebbe stato meglio intervenire, prima o poi. Dopo qualche settimana cominciarono le riprese della 2ª stagione di Game of Thrones. Ero a Dubrovnik, in Croazia, e mi ripetevo: ho 20 anni, sto bene, va tutto bene. Ma non era vero. Tutto mi costava una fatica immane. La serie, in compenso, aveva un successo colossale. Un anno dopo mi trovavo a New York per uno spettacolo. Andai a fare un controllo di routine. I medici mi dissero da un giorno all'altro che dovevo operare, subito, perché l'aneurisma poteva esplodere da un momento all'altro. L'operazione fu doppia e più invasiva e la degenza durò un altro lunghissimo mese. Però sono qui, sono sopravvissuta. Negli anni successivi al mio 2º intervento sono guarita oltre le mie più irragionevoli speranze. Ora sono al 100%. Al di là del mio lavoro di attrice, ho deciso di dedicarmi a una charity che ho aiutato a sviluppare in collaborazione con dei partner nel Regno Unito e negli Stati Uniti. C'è qualcosa di gratificante nell'essere arrivata alla stagione finale di Game of Thrones. Sono molto felice di essere qui e di poter vedere la fine di questa storia e l'inizio di tutto ciò che verrà dopo. Like a damsel in distress, I'm stressing you. My castle became a dungeon, 'cause I'm longing for you. Feeling strong for you. You a lot, yeah. It's dragon days. I need to be saved. I'm missing. La storia che vi abbiamo appena raccontato, la storia di Emily Clarke, protagonista di Game of Thrones, con la parte di Daenerys Targaryen, l'abbiamo letta su New York Magazine. È una storia che ha scritto lei, di suo pugno, proprio qualche mese dopo l'ultima stagione di Game of Thrones. La potete trovare lì se avete voglia di andare a cercarvela, oppure semplicemente riascoltarvi il podcast della nostra puntata e la sentite raccontata da noi. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E poco fa, in questa puntata che è dedicata all'eccesso di velocità, al non essere in grado di fermarsi e respirare un pochettino, abbiamo raccontato una storia con le parole stesse della protagonista, di Emily Clarke. Emily Clarke, lo diciamo poco fa, è una delle protagoniste di Game of Thrones, una delle serie televisive più colossali che siano mai state fatte, con un numero di fan nel mondo probabilmente come non se ne è mai viste prima. Per cercare di capire qualcosa di più su questa serie e anche su come sta Emily Clarke, noi abbiamo al telefono con noi una collaboratrice della Rosa Purpurea, che è il programma di Radio 24 in onda il sabato alle 18.05 e la domenica alle 17.05, che racconta di cinema e di serie televisive. Lei è Sonia Serafini. Buongiorno Sonia. Sì, ciao Matteo. Come ciao, stai? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Alla grande, grazie per essere qui con noi oggi. Senti, noi abbiamo raccontato appunto questa storia di Emily Clarke e volevamo sapere innanzitutto qualcosa di più su di lei. Insomma, lei ha avuto questo aneurisma, in realtà questi aneurismi, più di uno, tra la prima e la terza stagione di Game of Thrones. Le stagioni sono state 8, giusto Sonia? Assolutamente, 8. L'ultima è stata soltanto di 6 episodi. E sono stati lunghi un'ora ciascuno, quindi hanno fatto una cosa un pochino più cinematografica. Guarda, in realtà il percorso di Emilia Clarke è stato un percorso che ha sorpreso tutti quanti, perché lei ha avuto una malattia molto molto importante che è iniziata, come dicevi tu, dopo la prima stagione di Game of Thrones, sì. Quindi nel 2011. Lei ha avuto un dolore e poi si è resa conto di avere un aneurisma molto molto importante che l'ha portata ad avere un'operazione seria, è stata un mese. Questo è uscito subito, Sonia? Cioè l'opinione pubblica no. L'ha saputo? No, è stato tenuto nascosto. È per questo che ha sorpreso tutti, perché lei l'ha reso pubblico lo scorso anno con una lunga, lunga lettera pubblicata in prima persona sul New Yorker, in cui ha raccontato tutto il suo calvario. Sì, sì, infatti diciamo è proprio... La storia che abbiamo raccontato era le sue parole, noi ne abbiamo preso una parte perché era molto lunga, però lei racconta passo passo questa vicenda. Lei quindi di fatto, oltre a il suo personaggio è cresciuto nelle stagioni in maniera esponenziale ed è diventata una protagonista assoluta. Ora lei ha una vita attiva, è tranquilla, serena, sta bene, giusto? Guarda, lei non solo sta bene, ha creato poi un ente di beneficenza che si chiama Save You, che aiuta proprio le persone che si stanno riprendendo da lesioni cerebrali e aneurismi, perché giustamente si rende conto di essere una persona anche molto fortunata, ma con mezzi che non tutti hanno. Quindi lei è un personaggio molto pubblico anche sui social, ha un profilo Instagram molto molto bello, in cui oltre a rendere pubblico il lavoro che fa, si espone in prima persona su alcune problematiche e rende pubblica anche una parte della sua vita privata, una persona molto allegra, molto sorridente, però è anche l'unica, o quasi una delle uniche attrici o celebrity di Game of Thrones che è riuscita a fare un percorso poi cinematografico parallelo, perché lei ha fatto moltissimi film oltre. Perché quello è sempre un po' il problema, no, di quelli che diventano famosissimi con una serie, rimanere incastrati in quel personaggio, giusto? Assolutamente, lei ha lavorato con personaggi come Jude Law in Don Hemingway, ha fatto Terminator, ha fatto delle commedie romantiche molto belle, l'ultima è Last Christmas di Paul Feig, che è andata molto bene al botteghino, e poi è stata fra le protagoniste di solo a Star Wars Story, che è uno dei spin-off, certo, della saga di Star Wars, di Guerre Stellari. Sonia, senti, io vorrei approfittare della tua presenza per chiederti un'ultima cosa che riguarda più Game of Thrones, che è veramente la domanda da 100 milioni di dollari, mi rendo conto. ma perché quella serie ha avuto questo successo enorme, globale, così colossale davvero? Forse i numeri non li conosco, ma è quella che ha avuto probabilmente il maggior numero di visualizzazioni in giro per il mondo. Come mai? Ma guarda, le ragioni sono molte. In realtà è perché tutto si è aperto con Il Signore degli Anelli, che ha riportato il fantasy okay, in maniera colossale. Game of Thrones ha rivoluzionato la serialità, perché ha portato il cinema all'interno di una serie TV, ha fatto spettacolo con una storia che legava il fantasy agli intrighi politici, a dei personaggi molto molto sfaccettati e anche imprevedibili, perché poi quello che si diceva di Game of Thrones era che non potevi affezionarti a nessuno, perché in realtà c'era una suspense nel sapere il destino dei personaggi incredibile, quindi ti teneva incollato. Perché un secondo dopo che diventava il tuo migliore amico veniva ucciso malamente con un palo piantato da qualche parte. Malissimo. E quindi... Però in realtà è la spettacolarità. Devo dire che col crescere della serie sono cresciuti gli effetti speciali, sono cresciute ovviamente le comparse di personaggi famosi, ma è soprattutto la sceneggiatura unita appunto agli intrighi politici, a questi personaggi straordinari e al fantasy, che è il genere in sé. Anche persone che non sono fan in realtà. Sì, assolutamente, sono tra quelli, quindi lo capisco benissimo. Sonia, ti ringrazio moltissimo davvero per la tua spiegazione, in bocca al lupo per tutto e a presto, buona giornata. Grazie a voi, grazie mille, ciao. Ciao, ciao, ciao. And she is walking with me from the house of red. I hear a child crying, folks is heading home. They're praying from the jaws and the forest knows. But it won't share the secret when the king takes sides, leaving soldiers take their share. Night on seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of lies. He'll take back what he owns. andiamo a chiudere questa puntata, andiamo a chiudere questa settimana con la nostra storia seriale che mi rendo conto sta appassionando moltissimo, proprio perché racconta da dentro che cosa è successo in quella scuola in Florida quando nel 2018 un ragazzo, come me spesso succede, con un eccesso, noi abbiamo immaginato un eccesso di superbia, ha deciso di uccidere, e di follia chiaramente anche, di uccidere dei suoi ex compagni. Ne ha uccisi 17, ne ha feriti altrettanti, e una tra quelle ragazze che si è salvata era una ragazza italiana di una famiglia romana che sarà trasferita lì da poco. Il racconto che vi stiamo facendo lo stiamo facendo grazie alla voce del papà Giacomo e suo, di Cheryl, che parla in inglese, quindi noi ve la traduciamo. Mauro ha raccolto entrambe le storie e ce le ha raccontate. Ora stiamo con loro. I ragazzi sono scappati dalla scuola, cioè è stato lanciato l'allarme, si sono sentiti gli spari, e Cheryl è riuscita con alcuni suoi compagni a raggiungere un supermercato che si chiama Walmart. Dentro al Walmart piangevo, ho rischiato di impazzire al pensiero di quello che stavamo vivendo, al pensiero che io ero salva, ma non sapevo se i miei amici, i miei compagni di classe lo fossero. Sono rimasti lì per un'altra ora aspettando notizie, anche perché hanno chiuso quel Walmart, perché praticamente avevano un po' capito che lui era uscito con la folla. Infatti hanno barricato il Walmart e il SWAT team è arrivato lì anche. C'era uno SWAT lì a quel Walmart perché era un punto di interesse, e poi intanto l'altro SWAT stava svuotando la scuola piano piano, però è una scuola di 3.300 studenti, di conseguenza ci hanno messo un paio d'ore. I cellulari anche non prendono più tanto bene, sì, quando sono queste cose. Perché non e quando ci stanno queste situazioni mi sa che abbassano le frequenze per evitare che scattino bombe con i cellulari. Mi sa, lo fanno spesso anche a eventi, non ti prende mai il cellulare. Al Walmart lavorava un amico di mia mamma e mi ha portato una sedia, qualcosa da bere per cercare di calmarmi. Dopo che ho bevuto ho chiamato mia mamma, le ho detto di venire a prendermi lì, al Walmart, al supermercato, ma i dipendenti, per metterci in salvo, hanno deciso di sbarrare le porte. Con un WhatsApp ho detto a mia madre che ero là dentro e ci sono rimasta per almeno un'ora. Piangevo, chiamavo via WhatsApp gli amici che non vedevo lì con me e che sapevo che non tenevano mai la suoneria accesa di WhatsApp. Avevo paura di metterli in pericolo chiamandoli, ma non potevo fare a meno di cercarli. Però il segnale era pessimo quel giorno, i messaggi erano lentissimi. Poi anche la mia migliore amica mi ha detto che era dentro il Walmart, non lontano da me, ma che invece un'altra cara amica era rimasta intrappolata nell'aula. Non ho lasciato il supermercato fino a quando tutti i miei amici non sono stati portati in salvo fuori dalla scuola. Solo quando è arrivato lo SWAT team, ho scritto a mamma di venire a prendermi e portarmi a casa. È passata un'altra ora prima di andare via. Ho passato il resto del giorno mandando messaggi a tutti. Volevo sapere che fossimo tutti salvi. Il giorno dopo, poi, abbiamo fatto la conta. Uno dei miei compagni era rimasto vittima dell'assassino. Un'altra era stata ferita ed era in ospedale. E un'altra ancora, per salvarsi, si era gettata da una finestra e anche lei era in ospedale. Quando è che hai saputo dei tuoi amici? The next day. Vi ricordo che se per caso vi siete persi alcune puntate della nostra storia seriale, della storia di Cheryl, potete recuperarle il sabato alle 21.30 in un unico appuntamento con tutte e cinque le puntate, dalle 21.30 alle 22, altrimenti ovviamente in podcast come e quando volete. Sta arrivando un weekend, sarà un weekend un po' particolare per le persone che vivono al nord Italia, speriamo quantomeno ci sia bel tempo e di poter uscire, chi può farlo ovviamente, a prendersi un po' d'aria, oppure rimanere in casa e leggere, ascoltare storie, guardarle e magari scrivercele. Linee d'ombra @radio24.it. Lasciamo la linea al GR per sentire la situazione e noi torniamo lunedì per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!